e denari di Nicoletta Carbone e Deborah Rosciani. E se qualcuno di voi, ancora un po' all'antica, aspetta una risposta importante tramite lettera, oggi aspettiamo solo i messaggini, gli sms, è bene saperlo, deve armarsi di un po' di pazienza perché perlomeno in alcune zone d'Italia la consegna della posta ormai viene effettuata a giorni alterni e questa è una delle novità decise da Poste Italiane a partire dal 1 ottobre e non è l'unica novità che il mese di ottobre riserva in ambito postale. Intanto va detto che sono aumentate, anche se di qualche centesimo, ma in qualche caso anche di qualche euro, le tariffe per inviare una lettera, una raccomandata e anche per altri tipi di spedizione. Non è questa la notizia di cui vogliamo parlarvi oggi a Cuore Denari. La vera novità è la quotazione in borsa di Poste Italiane. Ieri a metà pomeriggio è arrivata l'ammissione alla quotazione da parte di Borsa Italiana. A qualcuno sembrerà un controsenso, da un lato un servizio che, se possiamo dire così, rallenta o diventa più costoso, dall'altro lo sbarco a Piazza Affari. In realtà dobbiamo ricordare che solo il 14% del fatturato di Poste Italiane proviene ormai dal comparto dei recapiti, che quindi l'approdo in borsa per questa grande azienda va visto come una delle facce della sua modernizzazione. Allora, sulla base delle notizie che abbiamo fino a questo momento, perché non c'è ancora il prospetto informativo varato a cui la Consob dovrebbe dare il via libera, aspettiamo da un momento all'altro questa notizia. Noi oggi comunque parliamo di questa grande operazione attesa da molti risparmiatori. 800 24 00 24, osserveremo nello specifico questa notizia finanziaria con gli occhi appunto del piccolo risparmiatore. E Deborah, nella seconda parte della trasmissione chiederemo ai nostri esperti di prestarci il loro occhio clinico e gli affideremo infatti un compito molto impegnativo. Dovranno infatti spiegarci come preservare e difendere il nostro apparato scheletrico, che è un patrimonio consistente, direbbero così i tuoi esperti. Sai, sì, quante ossa abbiamo? Prova a indovinare, più di 100 o meno di 250? Più di 250, secondo più me. Più di 250, tan! Questo dice Deborah Rosciani, 800 24 00 24. Sai che ti do un libro, è molto interessante. Dimmi. È proprio rivolto alle donne, e non solo alle donne, anche agli uomini, a tutte le persone che vogliono orientarsi nelle scelte finanziarie. Dai. L'ha scritto una persona una che conosco, sì. È simpatica. Si chiama abbastanza. Insomma. Però non parlo di ossa lì, eh? No, in donne chiama, di denari. Si chiama donne di denari. Titola Donne. Grazie. Di denari. Comunque non parliamo né di ossa né di poste in quel libro là, quindi. E invece di ossa parleremo, certo, oggi, i nostri esperti ti daranno la risposta esatta, ma soprattutto tanti consigli su alimentazione e attività fisica per chi, come si dice, vuole restare in gamba. 800 24 00 24. Allora, scalda i motori, tu senti che cosa hanno messo per introdurre questo lancio? Una delle più grandi privatizzazioni degli ultimi anni. Si tratta di un'operazione tricolore, un'operazione tutta italiana. Parliamo della privatizzazione delle Poste Italiane. C'è grande attesa, non tanto da parte dei piccoli risparmiatori, ai quali comunque ci rivolgeremo questa mattina, quanto da parte del principale azionista di questa azienda, il Ministero dell'Economia. Oggi cominciamo ad esplorare le caratteristiche di questa operazione, vale a dire di questa IPO, Initial Public Offering, che porterà l'azienda in borsa alla fine di ottobre, presumibilmente il 28 ottobre, diciamo l'80%. Ieri a metà pomeriggio è arrivata l'ammissione alla quotazione da parte della Borsa Italiana. Oggi è la giornata in cui dovrebbe arrivare il via libera da parte della Consob al prospetto informativo, quel documento che ci dà proprio tutte le informazioni dettagliatissime dell'operazione, quindi per esempio quante azioni potrai prenotare tu per aderire a questa operazione e quindi naturalmente per partecipare a questa privatizzazione. Questa è l'informazione, diciamo, fondamentale che i piccoli risparmiatori vogliono avere. Bisognerà anche capire di tutto il capitale che va sul mercato quanto è riservato ad investitori istituzionali, quanto ai piccoli risparmiatori e quanto ai dipendenti delle Poste Italiane. Questo è un punto molto delicato sul quale si sofferma, lo volevo segnalare, un articolo molto ben scritto come sempre della collega Laura Serafini della redazione di Roma del Sole 24 24 ore, dove ricorda proprio il fatto che tutto sommato il mondo degli impiegati delle poste, dei lavoratori delle poste, è un mondo non molto facoltoso, non avvezzo agli investimenti immobiliari, ma verrà tuttavia questo mondo coinvolto nella vendita, per cui bisognerà farlo con tutte le cautele necessarie. Questo è il motivo per cui la Consob ci sta mettendo un po' a dare il via libera al prospetto informativo. Con chi ne parliamo di tutto ciò stamattina? Sta arrivando Nicola Borzi, collega di Plus 24 del Sole 24 Ore, ma nel frattempo io saluto un caro amico di Cuore e Denari, ma non solo, Salvatore Gazziano, amministratore e direttore investimenti di Soldi Expert. Buongiorno. Benvenuto. Ciao a tutti. Ciao. Grazie. Salvatore, eccoci qua. Allora, 800 24 00 24, il numero verde a disposizione degli ascoltatori, che fra un po' cominceremo a sentire, perché vedo già che anche loro hanno scaldato i motori. Salvatore si è sbizzarrito negli ultimi giorni a vivacizzare il sito della sua azienda con molti commenti su questa operazione. Parto prima di tutto proprio con questo, Salvatore, insieme a te, no? A quelli che sono stati un po' identificati come gli aspetti critici di questa grande operazione. Sono da anni che io sento dire, ma insomma non sanno mandare neanche le lettere, non le fanno arrivare a destinazione nei tempi giusti, figuriamoci se un'azienda... Perché si imbarcano in un'operazione come questa, se un carrozzone di questo tipo è in grado di andare in borsa. In realtà questa operazione è voluta fortemente dal manager che sta guidando Poste Italiane, Francesco Caio. Allora intanto ti chiedo un commento generale su tutto ciò, dopodiché cominceremo a dare per quello che possiamo i dettagli. Sicuramente le Poste Italiane sono nei ricordi di ciascuno di noi da generazioni, è un'azienda che ha oltre 150 anni ed è presente in qualsiasi comune in Italia, o almeno così lo è stato per tempo, quindi è stato anche l'unico intermediario, anche piccolo bancario, che il risparmiatore aveva di fronte. Quello che riguarda un po' il modello di Poste Italiane come modello di business, in effetti è veramente una cosa molto strana. Si potrebbe definire un centauro, un ircocervo, perché dentro Poste Italiane ci troviamo dentro tantissime cose molto diverse e spesso non sono quelle che sono quelle che fanno parte del nostro immaginario collettivo. Ormai il 70% dei ricavi e quasi dei profitti di Poste Italiane in realtà arrivano dalle polizze assicurative, dalla vendita di prodotti, talvolta anche molto complessi, di cui magari parleremo, di prodotti strutturati, index linked, piuttosto che servizi finanziari, dove i servizi postali tradizionali sono oramai una parte molto bassa del fatturato e in realtà non fanno utile. Negli anni, fine anni 90, in Poste Italiane abbiamo assistito a una rivoluzione che è stata portata avanti dall'ex ministro Passera, che ha completamente trasformato un'azienda che dobbiamo dire che per anni è stata un colabrodo pazzesco, fonte di perdite di miliardi da allora migliaia di miliardi di lire, e che invece negli ultimi anni, grazie a questo modello, su cui ci sarebbe molto da discutere dal punto di vista dell'economia del regolatore, se è giusto che un'azienda possa invadere come ha fatto le Poste in questi anni con questo modello, perché intanto vado alla posta, è divertente, a me è capitato ultimamente che c'era una signora che chiedeva se era arrivato il mangime per le cocorite, perché le Poste Italiane attraverso Poste, certo, continua ad arrivare i pacchi, ad essere spediti i pacchi naturalmente, quindi l'attività tradizionale anche se marginale c'è ancora, trasportano i fedeli a Lourdes attraverso gli aerei, si occupano di traffico telefonico attraverso Poste Mobile, è vero. Fanno tantissime cose, e quando vado a ritirare le raccomandate c'è sempre l'impiegato che l'offerta me la fa di Poste Mobile, appunto, della tessera telefonica. Esatto. E quindi ha tantissime attività che porta avanti, e questo mostro sicuramente abbiamo visto che è un mostro che è gestito in questo modo grazie ad alcuni settori che sono soprattutto alla fine il settore assicurativo e in parte quello finanziario, producono redditività e utile e quindi hanno in un certo senso risanato il vecchio carrozzone postale, che comunque ha sicuramente all'interno diverse contraddizioni molto forti. Salvatore, grazie per questo primo commento, al quale aggiungiamo quello che adesso farà senz'altro Nicola Borzi, collega del Sole 24 Ore. Ciao Nicola. Buongiorno. Del Sole 24, del Sole 24 Ore. Allora, 24, sì, esatto. Buongiorno a tutti. Allora, dicevamo, aspettiamo ad ore, immagino, il via libera della Consob al prospetto informativo. Ieri è arrivata l'autorizzazione della Borsa Italiana alla quotazione. Da quando si dovrebbe partire, Nicola? l'IPO partirà lunedì, secondo te? Teoricamente nei prossimi giorni, tutto dipende dalla tempistica del prospetto, perché ovviamente senza prospetto stiamo discutendo di informazioni che in questo momento sono parziali e non hanno nessuna conferma ufficiale. Come diceva il nostro interlocutore precedente, quello che si va a quotare in realtà non è tanto un operatore postale, è anche, ma in ultima analisi, quello che resta di un operatore postale. Quello che si va a quotare in questo momento è, per numero di sportelli, 13.000, la prima banca retail del paese, per raccolta la prima assicurazione nel settore vita, è un operatore telefonico, la redditività e i risultati arrivano dalla banca, dall'assicurazione. Ci manca solo che vengano a dare una pulita a casa nostra, poi hanno fatto tutto. No, ma quello che interessa in realtà è che è un tema che è stato in qualche modo toccato anche dall'intervento precedente, è proprio la questione del controllo dei regolatori, e mi spiego. BancoPosta, sì, è banca o no? E dunque sottostà al controllo della Banca d'Italia come le altre banche italiane. Quindi secondo te, per esempio, questo è uno degli aspetti su cui Consob sta un attimino mettendo la lente di ingrandimento per capire quanto peso. Poi c'è un'altra questione di carattere fondamentale. È vero, IVASS controlla l'attività di Poste Vita. È l'organismo che controlla il mercato assicurativo. È l'organismo che controlla il mercato assicurativo, ex ISVAP. Quindi a questo punto è controllata. Ma per quanto riguarda, ad esempio, i collocamenti di prodotti finanziari ai risparmiatori, sappiamo che le Consob, verso la fine dell'anno scorso, ha avviato prima un'indagine e poi ha emesso delle sanzioni, sì, nei confronti dei vecchi vertici di Poste, non degli attuali. Che cosa sappiamo a oggi del rispetto, ad esempio, della normativa MiFID sulla profilatura dei clienti, della risoluzione di tutti i problemi che il nuovo amministratore delegato e il nuovo CDA hanno promesso di svolgere in tempi brevi? Su questi aspetti ci arriveremo nella seconda parte della trasmissione. Nicola, già vedo che è ora di andare a sentire il traffico, scopriamo lo in questo che momento. Vendono anche i gratta e vinci? Sì. Certo che lo so, infatti una delle cose che mi ha sempre stupito quando vado in posta a ritirare pacchi o a mandare raccomandate è il fatto che un operatore di questo tipo, che è impegnato anche sul fronte sociale, in qualche modo poi, come dire, agevoli delle iniziative che hanno poco di sociale. No, scopriamo oggi che è la giornata mondiale della posta, ci segnalano che Marco caso. E Laura. Che caso? Ah, ma tu dici che tutta l'organizzazione del processo... Dico una cosa e taglio rapidamente su questa parte, perché poi c'è un tema che è quello della valorizzazione dell'azienda e quindi del titolo. Veri competitori di Poste Italiane per modello di business in questo momento quotati non esistono, perché le poste che si sono quotate nel nord Europa, come Poste Olanda, come Royal Mail in Inghilterra, come Deutsche Post in Germania, in realtà fanno soltanto l'operatore postale. Poi c'è Correios de Portugal, su Plus, che esce domani, ci sono le analisi di due di questi operatori. Il vero operatore mondiale che fa un business assolutamente simile a quello di Poste Italiane è la Posta del Giappone, che si sta quotando esattamente in questo periodo, però i risultati, la valorizzazione del titolo arriveranno dopo quella di Poste Italiane, quindi sarà difficile fare un'analisi di PIR, di comparazione. Questo dipenderà molto dall'analisi che verranno fatte dagli analisti finanziari. Però in questo momento gli analisti finanziari fanno quasi tutti parte del sistema del collocamento di Poste, quindi sono in conflitto di interesse. Mamma mia, è quante ne sa? Sì, Nicola, come sempre, allora, è una garanzia. Adesso questa del Giappone mi piace. Anche le che poste si stanno giapponesi quotando anche loro, esatto. Erano un po' invidiosi. Se sono rapidi in Giappone. Molto, e anche molto più grandi. Ecco qua. Allora ci fermiamo perché è tempo del traffico. Tempo di andare a sentire che cosa succede sulle strade, sulle autostrade. 800 24 00 24, prenotate i vostri interventi, ma continuate a scriverci messaggi che tra poco leggeremo. Smau ti aspetta a Milano, 21-23 ottobre, Fiera Milano City, smau.it. Vi presenta... Cuore e denari. Io mi porto in borsa, borsa, anch'io come da. Io mi porto in borsa, borsa, sì sì. È Poste Italiane a quotarsi in borsa, ma ancora non abbiamo proprio i dettagli della giornata in cui questo avverrà. Dovrebbe presumibilmente essere il 28 ottobre, al termine del procedimento del processo di IPO, Initial Public Offering, proprio la modalità con cui la società può essere sottoscritta da piccoli e grandi risparmiatori. Io sto molto banalizzando per far capire l'operazione ai nostri ascoltatori. Quando ci sarà il via libera della Consob al prospetto informativo dell'operazione, l'IPO partirà. Anche qua siamo nell'ordine delle congetture finanziarie. Presumibilmente si parte lunedì, se il via libera della Consob arriva oggi. Intanto ieri è arrivato il via libera alla quotazione da parte di Borsa Italiana. Stiamo cercando di capire che tipo di opportunità può essere per un piccolo risparmiatore aderire a questa iniziativa. Per fortuna, insomma, anche se siamo a mercati aperti, l'azienda ancora non è quotata, possiamo parlare anche un po' a ruota libera, come stanno facendo Salvatore Gazziano di Money Expert, di Soldi Expert, e Nicola Borsi di Plus 24 del Sole 24 Ore. Poi tante domande da parte dei nostri ascoltatori all'800 24 00 24. Sono pronti Pasquale, Franco e Ingrid. Voglio solo chiedere a Nicola se si sa quanto capitale verrà messo in vendita e se esiste un ordine di idee della ripartizione fra investitori istituzionali, pubblico retail e personale delle Poste, che è una bella fetta, 130.000 dipendenti sul territorio. Allora, si parla di una quotazione che dovrebbe riguardare circa il 40% del capitale. Di questo al retail, cioè al pubblico dei piccoli risparmiatori, dovrebbe essere dedicata una quota molto ingente, fatto salvo l'interesse ovviamente di grandi investitori istituzionali, tra cui forse anche investitori di Stato cinesi, per una quota importante della sezione. Ecco, quello che vorrei dire: nei giorni scorsi sono state prodotte da alcuni studi di analisi molte ricerche sulla valorizzazione del titolo di Poste Italiane. Come dicevo, manca quello che noi chiamiamo in analisi di finanziaria un peer o dei peer reali, cioè dei comparable delle aziende che abbiano lo stesso modello di business. Le valutazioni che sono state fatte hanno utilizzato un metodo che si chiama somma delle parti, cioè ogni divisione di Poste Italiane fa parte di un settore diverso, non si possono valutare tutto allo stesso modo, perché una cosa è fare banca, una cosa è fare assicurazione, certo, una cosa è fare telefonia, una cosa è fare distribuzione. Sono state valutate ciascuna con un sistema di diciamo di valutazione diverso. La valutazione cade tutta in un ambito, in una forchetta che è molto simile a quella che viene descritta da giorni sulla stampa. Noi in realtà attendiamo, se possibile, qualche valutazione di qualche esperto indipendente. Butto lì anche un'altra provocazione: secondo alcuni analisti questa in realtà potrebbe essere una valutazione molto, ma molto interessante per i risparmiatori, nel senso che la valutazione di Poste, anche se si andasse nella parte alta della forchetta di quotazione, sarebbe comunque foriera di buone possibilità di ottenere grandi risultati a livello di rivalutazione del titolo, sì, e di utili nei prossimi anni. Sì, no, stavo pensando intanto che i manager dell'azienda nei giorni scorsi hanno fatto questi roadshow in giro per il mondo, e sembra che tutti gli investitori istituzionali interessati ad aderire all'operazione, appunto, abbiano molto apprezzato comunque l'articolazione molto complessa del modello di business, per cui effettivamente anche questo è un aspetto molto interessante sul quale nei suoi commenti Salvatore Gazziano appunto si sofferma a lungo. Prima di tornare, Salvatore, su questo, ovviamente ricordando l'ottica di Cuore Denari nei confronti del piccolo risparmiatore, non abbiamo ancora assolutamente informazioni, sono proprio le ultime che arriveranno su lotto minimo sottoscrivibile, taglio minimo di investimento. Ovviamente questo è assolutamente imprevedibile al momento. Sì, queste informazioni ancora mancano, anche se tutte le informazioni disponibili le ha dette giustamente Nicola Borsi, e anche quello che riguarda appunto la sottovalutazione, ci sono sicuramente aspetti che alcuni osservatori, fra cui proprio l'ex ministro e l'ex numero uno di Poste Italiane Passera, che ha detto che secondo lui questa valutazione proprio è molto molto bassa, anche se fosse nella forchetta dei 10-11 miliardi di euro, e paradossalmente ha detto che secondo lui non dovrebbe quotarla, ma gli ha fatto la più grande pubblicità dicendo che il prezzo è troppo basso, e quindi su questo concordo con Gazziano. Cioè, ci sono state grosse polemiche sulla stampa, prima sul Corriere, poi su altre testate, riguardo proprio le uscite di Passera da ex amministratore delegato di Poste. Allora, è un po' curioso appunto il suo commento. Sì, va detto una cosa. Poi in realtà è lui che ha portato le Poste Italiane a seguire questo modello, che è molto molto invadente nei confronti del libero mercato, ed è proprio l'aspetto appunto che anche vedo Borsi ha messo in evidenza, sul fatto che questa azienda sicuramente ha delle potenzialità molto forti, però diciamo che quello che non credo che scioglierà nemmeno il prospetto, e rimane da qui ai prossimi anni capire, è se dovesse esistere veramente un regolatore a livello europeo che volesse andare a controllare che tutto sia svolto attraverso un libero mercato, se questa azienda potrebbe stare in piedi come sta oggi, perché oggi il Poste Italiane riceve circa 1,6 miliardi da parte della Cassa Depositi e Prestiti il collocamento dei buoni fruttiferi, riceve circa 300-400 milioni di euro dallo Stato per il servizio cosiddetto universale, che ovvero la spedizione della posta tradizionale. e quindi ha sicuramente una serie di vantaggi competitivi, compreso il fatto che fa la banca, come ha detto Borsi, ma non è una banca. Certo, ma insomma io spero che il mercato tutto questo lo comprenderà piano piano, lo starà analizzando e lo starà analizzando appunto con grande attenzione e grande cautela. Allora, in realtà qua siamo pronti con le domande per gli ascoltatori, ma io riesco magari a sentirne una e poi rispondiamo dopo. Ingrid da Torino, mi piace moltissimo la sua. Ingrid, ce la fa in 30 secondi ad essere molto sintetica, ma so che sarà anche efficace? Penso di sì. Buongiorno a tutti, innanzitutto complimenti per questa scelta di crescita evolutiva da parte di Poste Italiane. Il mio quesito è, dal momento che frequento per questioni di lavoro, mi sposto sul territorio e ho occasione di utilizzare il servizio offerto dalle Poste con i diversi sportelli sul territorio piemontese, chiedo fino a che punto il personale delle Poste Italiane, soprattutto il personale di sportello, è così gratificato e soddisfatto da questa crescita? Forse non è il caso prima di dare veramente un input formativo, un input anche economico. Tema un evergreen. A dopo, Ingrid. Il segnale orario vi è offerto da Formaggio Gran Moravia, l'unico con l'etichetta multimediale della filiera ecosostenibile. State ascoltando un programma offerto da Uliveto ti aiuta a digerire, Rocchetta ti depura. Uliveto e Rocchetta, acque della salute. Cuore e denari. No, I know, I'm no Superman. Possiamo scommettere che Superman abbia ossa forti e sane, ma ossa forti e sane, ma non occorre essere un supereroe, basta fare attività sportiva. Praticando sport, infatti, il corpo produce un ormone che fabbrica le ossa. Ne parleremo tra poco, perché c'è una ricerca che ci racconta proprio questi risultati, ma ci occuperemo anche di cartilagini, che sono delle strutture che, come le ossa, risentono del passare degli anni e dello stile di vita e che svolgono un ruolo determinante per la salute del nostro apparato scheletrico. Un esempio, il ginocchio. Se le cartilagini si usurano, l'osso rischia grosso. Salviamo i menischi, quindi teniamoli da conte, salviamo anche le cartilagini, parleremo di attività fisica, parleremo di stile di vita, parleremo di attività sportiva. 800 24 00 24 tra poco. Io mi Abbiamo ancora qualche minuto di tempo per parlare della quotazione in borsa di Poste Italiane, davvero questione di poche settimane, dovrebbe essere il 28 ottobre, ribadisco le date fondamentali, da lunedì dovrebbe partire, se c'è oggi via libera della Consob al prospetto informativo, l'IPO, e cioè proprio la procedura di sottoscrizione da parte di piccoli e grandi risparmiatori, piccoli e grandi investitori di appunto lotti di questa azienda. 800 24 00 24, numero verde sempre a vostra disposizione. Questa mattina ci sono con noi Nicola Borsi, Plus 24, Il Sole 24 Ore, Salvatore Gazziano, direttore investimenti di Soldi Expert. Ripartiamo dalla domanda di Ingrid da Torino, che diceva: io lavoro molto con le Poste, il tema è capire come tutto il personale sul territorio, 130.000 dipendenti delle Poste Italiane che diventeranno anche azionisti, è formato ed è preparato ad affrontare tutto ciò, ma c'è anche una novità ulteriore che dovrebbe presumibilmente arrivare prossimamente. Ce l'anticipava poco fa Nicola Borsi. Attenzione all'impiegato postale che, in veste di consulente finanziario, busserà alla nostra porta. Sì, perché abbiamo domani su Plus 24 alcune anticipazioni che riguardano l'IPO di Poste. Abbiamo affrontato, ad esempio, come anticipazione iniziale il tema proprio della formazione dei dipendenti alla consulenza finanziaria. Sappiamo che i progetti di Poste Italiane sono quelli di creare una rete di personale qualificato, ovviamente dovrà essere formato, dovrà avere tutte le certificazioni che riguardano la MIFID, l'IVAS e quant'altro, che si recheranno porta a porta da clienti a dare formazione e consulenza finanziaria. Questo ovviamente è un tema importante, perché anche altre banche stanno muovendosi in questa direzione. Visto che il cliente va sempre meno in banca, perché ormai con internet banking e con gli altri canali virtuali si può gestire tranquillamente un rapporto di carattere bancario e talvolta, solo talvolta, un rapporto anche di carattere di investimento, è la banca, in questo caso Banco Posta, che andrà sempre più verso i clienti. Io vorrei fare rapidissimamente un discorso sull'IPO. si infittiscono i segnali che il prospetto di Poste Italiane arriverà entro la giornata e che quindi molto probabilmente da lunedì inizierà la fase attiva del collocamento, il cosiddetto book building. È molto importante, soprattutto per coloro a cui sarà proposto l'investimento in Posta, considerare innanzitutto che è un investimento di tipo azionario, quindi è un investimento in ogni caso che segue l'andamento dei mercati, ha un livello di rischio che deve essere in linea con il proprio profilo di rischio, l'investimento deve essere contenuto entro una quota che è sempre accettabile in termini di profilo di rischio. Vedremo se ci saranno azioni gratuite date a chi deterrà i titoli per un determinato periodo, certo, di tempo, come è successo anche in passato per altre grandi IPO. La cosa fondamentale, visto che leggere il prospetto sarà un'impresa ardua, si parla di alcune centinaia di pagine, mamma mia, veramente. La cosa fondamentale è avere ben chiaro qual è la natura dell'investimento e per quale motivo si decide di investire in Poste Italiane. Sappiamo che l'amministratore delegato Caio ha presentato degli obiettivi di rendimento di Poste, con una ripresa della redditività che sarà molto importante nei prossimi 4 anni. Bisognerà seguire costantemente anche il proprio investimento per capire se questi obiettivi vengono centrati via via che il piano si dipana. Chiarissimo, grazie anche per queste informazioni molto pratiche. Allora, peraltro, magari sento velocemente Franco da Como per poi andare verso le conclusioni con l'ultimo commento con Salvatore Gazziano, proprio a proposito di questa novità relativa ai consulenti finanziari di Poste che metteranno a disposizione la loro professionalità porta a porta. Questa è una notizia molto rilevante, anche perché curiosamente proprio nel momento in cui Consob dà il via libera alla quotazione, succederà nelle prossime ore appunto con il via libera al prospetto informativo, dall'altra parte Consob proprio ha multato le Poste Italiane per violazione della disciplina sulla verifica della clientela per conflitto di interesse nella vendita di prodotti emessi dalle società del gruppo, un tema su cui nei suoi commenti su Soldi Expert Salvatore Gazziano si è soffermato a lungo. Poi questi commenti li faccio ribadire. Franco da Como, veloce. Grazie. Buongiorno a voi. Allora, parlo della logistica di Poste Italiane, per cui grandissimi clienti che lasciano l'azienda, penetrazione bassa di mercato, percezione della qualità percepita da parte di tutti molto bassa e un manager che porterà l'azienda con la propria rete in borsa sanzionato dalla Consob. Mi sembra un panorama un po' fosco per i piccoli risparmiatori che decideranno di investire, soprattutto con la presenza di un manager sanzionato da Consob. Allora, adesso peraltro magari probabilmente poi Franco è chiaro che le vuole precisare qualcosa Nicola? Mi risulta che il manager sanzionato da Consob sia il precedente, prima di Caio, management, esatto. Detto questo, chiaramente non sono in questi toni le informazioni che troveremo scritte nel prospetto informativo. Per chi legge la stampa specializzata, tutte queste criticità le trova ampiamente, per cui un piccolo risparmiatore, se vuole, ha tutti gli strumenti per documentarsi al meglio prima di fare un investimento di questo tipo. Se poi ritiene questa azienda inossidabile, assolutamente solida, come peraltro è dati i numeri, può fare la scelta che ritiene. L'importante è che sappia. Va poi ribadito che, ripeto, il servizio di logistica è ormai un servizio residuale per Poste Italiane. Esatto. La vera attività di Poste Italiane è Banco Poste, Poste Vita, quella finanziaria. Esatto. Salvatore Gazziano, allora, Consob da una parte dal via libera, da una parte in passato però ha dato anche una steccatina. Salvo. Sì, ha dato una steccatina dovuta, che diciamo spesso chi va alla Posta mentre faceva la coda sentiva che quelli che loro chiamano i salottini il direttore cercava di vendere prodotti finanziari o alla vecchietta a convincere. Hanno avuto anche la brutta partita delle polizze finanziarie legate a Lehman Brothers, anche quella è stata una vicenda che comunque Poste ha gestito in maniera abbastanza veloce, restituendo quasi tutto quello che gli investitori avevano perso. Esatto, qui torniamo un po' al tema dei temi che ricorre spesso anche proprio su Plus 24 nelle inchieste di Nicola Borzi, cioè che riguarda le Poste Italiane, riguarda la maggior parte purtroppo di molte banche italiane e che sicuramente nel caso delle Poste Italiane fa più effetto anche perché adesso c'è la quotazione in borsa, è quello che viene chiamato il mal di budget o che gli americani chiamano hard selling, la vendita forzata, e la Consob in effetti durante un periodo di indagine che riguarda gli anni passati ha rilevato come spesso anche allo sportello postale si verificavano vendite in palese conflitto di interesse con la rete BancoPosta, cosa che già conosciamo spesso dentro anche altre banche, strutture commerciali, quindi pressate per raccogliere volumi e con incentivi legati a budget da raggiungere. Certo. Questo sicuramente non è una cosa positiva. Ma non sarebbe neanche tanto questo il problema, la pressione dei dipendenti, quanto poi le persone, i risparmiatori a cui questi prodotti finanziari venivano fatti sottoscrivere, no? Esatto, ecco. E poi il problema è proprio che i prodotti che vengono sottoscritti, bisogna domandare, e qua è un po' il tema che c'è dietro anche la domanda dell'ultimo interlocutore, quello che è bene per il risparmiatore c'è anche bene per il maggior azionista e per chi controlla. Spesso purtroppo il conflitto di interessi significa proprio questo, che quello che ti viene consigliato non è necessariamente la cosa migliore per il risparmiatore, che con lo stesso prezzo potrebbe trovare alternative più valide a costi palesi o più conveniente. Qui certo c'è in di mezzo la formazione sia dei consulenti al sportello, ma purtroppo il vero dramma e il vero tema è anche la formazione del risparmiatore, che evidentemente se capita che milioni di risparmiatori o decine di migliaia, vediamo anche sul caso delle banche venete o anche allo sportello, spesso vengono collocati prodotti molto opachi, dei costi molto cari, è perché il risparmiatore non ha la capacità di distinguere quello che è più conveniente per lui, e si fa anche a volte per doveri morali, no? Si a volte fida. Ci capita a noi di dire ma la banca mi scocciava a dirgli no. Ecco, uno deve pensare al proprio interesse, non a quello della banca o della si posta. Sente un po' ostaggio della banca, sì. Vabbè, detta in questi termini. Tra l'altro per questa problematica che ci ricordavi prima, la Consab ha multato per 60.000 euro Poste Italiane, mi pare che quindi non fosse stata neanche particolarmente dolorosa, diciamo, la sanzione. No. Non abbiamo tempo di affrontare altri argomenti, ma naturalmente li riaffronteremo in un'altra puntata, perché a me sarebbe piaciuto stamattina, ma non ci siamo riusciti, i temi sono tanti, i rivoli, spiegare che cos'è una privatizzazione, che differenza c'è tra una privatizzazione di Poste Italiane e quelle molto importanti che sono state fatte in passato, e poi soprattutto se c'è qualche possibile indicazione sulla base delle notizie di bilancio che abbiamo, Nicola, in 20 secondi poi vi saluto entrambi, sulla remunerazione agli azionisti che potrebbe essere garantita da una quotazione di questo tipo, il cosiddetto payout, che dividendo teoricamente potrebbe arrivare ai sottoscrittori di azioni Poste. Informazione, e mi tengo sul vago perché ripeto, certo, non c'è ancora non un prospetto nulla. E soprattutto ci sono nuove regole europee di cui parliamo domani su Plus, che possono sanzionare anche quello che io dico per radio. La remunerazione dovrebbe essere interessante. Ripeto, attenzione all'obiettivo dell'investimento, attenzione alla corrispondenza con il profilo di rischio. Sulla questione della MiFID, fatevi profilare correttamente da coloro che vi propongono l'investimento. Non fate forzarvi dal punto di vista della profilatura. Se siete morigerati, non fate mettere che avete una propensione a rischio più alta di quella che è realmente. Non fatevi riprofilare se la profilatura è stata fatta di recente, e considerate che chi propone l'investimento è remunerato per raggiungere l'obiettivo di collocamento. Allora, per tutte le altre cose che non abbiamo detto, domani tantissime pagine, sia tra Plus che sul quotidiano, su questa grande quotazione, probabilmente la più importante IPO europea degli ultimi anni, quindi quantomeno questo merito ce l'abbiamo. Grazie Nicola, buon grazie lavoro. Grazie a voi tutti e buon lavoro. Salvatore, grazie anche a te, a presto. Grazie a voi. Eccoci qua. Allora, pronti a sgambettare? E noi siamo pronti per cambiare tema. Chissà se c'è anche il ginocchio del postino, perché c'è quello della lavandaia, del runner, il ginocchio da cinema. Ma qua è tornato a trovarci il professor Roberto D'Anchise, primario ortopedico all'Istituto Scientifico Galeazzi di Milano. Buongiorno. Buongiorno a tutti, innanzitutto. Non ci ho mai pensato, devo dire la verità. Però se ci penso, sì, nel senso che forse adesso meno perché hanno dei mezzi di locomozione meno impegnativi, però una volta camminavano tanto, e un lavoro che obbliga a camminare molto, a stare tanto in piedi, è sicuramente un po' usurante per le articolazioni. 800 24 00 24, ginocchio e non solo. Avevo fatto a Deborah una domandina, perché oggi vogliamo occuparci in generale delle nostre ossa. Ci sono dei modi per mantenerle sane e forti. Quante ossa abbiamo, professor D'Anchise? Tu quanto avevi detto, Deborah? Più di 250, tu mi avevi dato anche delle opzioni e io non l'ho neanche presa in considerazione, perché secondo me tentava di mettermi fuori strada. No, perché io ho detto più di 100 o meno di 250, lei mi ha detto più di 250. Ma lei non voleva vincere il libro. Ma perché sono tanto alta? Perché secondo me ce ne ho di più degli altri. Quante? Quante sono, professor D'Anchise, le ossa? Un po' più di 200. Dico un po' più di 200 perché ci sono delle ossa sovrannumerarie, e ci sono delle ossa che possono non esserci, però insomma quella cifra più o meno è quella. Allora, per avere tutte queste 200 circa erotte, speriamo di non romperle, ossa forti e sane, bisogna muoversi, lo dice la ricerca. Esiste un ormone che fabbrica le ossa, il corpo lo produce praticando sport. E questa è la scoperta tutta italiana, risultato di una ricerca svolta dall'Università di Bari in collaborazione con l'Università Politecnica delle Marche di Ancona e supportata dalla Società appena si sente Società Italiana dell'Osteoporosi, del Metabolismo Minerale e delle Malattie dello Scheletro. In linea con noi la professoressa Maria Grano. Buongiorno professoressa. Buongiorno a voi. Grazie per l'invito a partecipare a questa trasmissione. È una bella soddisfazione anche per noi. È docente di istologia ed embriologia alla Facoltà di Medicina dell'Università di Bari, che ha proprio condotto lo studio. Professoressa, tutti noi sappiamo che l'attività fisica svolge un ruolo fondamentale per la nostra salute, la vostra ricerca lo conferma, aggiungendo un dato molto interessante. Il movimento attiva la produzione di un ormone che ha la capacità di creare tessuto osseo. Per questo è stato anche ribattezzato ormone salva osso e ormone dello sport, ma il suo nome vero è irisina. Come funziona? Allora, il nome vero dell'ormone è irisina, questa molecola è stata scoperta nel 2012 da un gruppo statunitense che ha dimostrato l'effetto della molecola sul grasso, mentre noi abbiamo scoperto l'effetto benefico di questa molecola sullo scheletro. Si tratta di una piccola proteina prodotta dal muscolo durante l'esercizio fisico che viene rilasciata nel sangue, raggiunge lo scheletro e lo rinforza inducendone un rinnovamento. Noi sappiamo da sempre che l'effetto benefico dello sport sullo scheletro è noto, così come su altri organi, certo. Ma la nostra scoperta svela il protagonista della comunicazione muscolo-osso. E questa è proprio l'irisina, che ribadisco viene prodotta con il movimento e agisce in particolare sulle cellule che fabbricano osso, che si chiamano osteoblasti, rendendoli più numerosi e più attivi. Forte. Quindi, questa irisina, e non a caso il nome di una donna, deriva dal nome della dea, vero? Da Iris, messaggero degli dei, che metteva proprio in comunicazione, in relazione, proprio come fa l'irisina tra il muscolo e le ossa. Quindi muoviamoci, professoressa Grano, le nostre ossa si manterranno giovani e forti, i risultati sono assicurati e soprattutto non è mai troppo tardi per cominciare. Ma mi aiuti a capire, se il movimento attiva questa irisina, l'ormone fabbrica osso, significa che con l'attività fisica possiamo prevenire anche l'osteoporosi, una patologia presente, molto diffusa nel nostro paese, ancora spesso molto trascurata. In Italia colpisce circa 5 milioni di persone, di queste pensate l'80% sono donne in postmenopausa, un momento delicato nella vita della donna, perché quando i livelli di estrogeni scendono le ossa iniziano a perdere calcio e fosforo e lentamente diventano più fragili, quindi più a rischio di fratture. Professoressa Grano, quindi l'indicazione a tutti, ma in modo particolare a noi donne, è muoviamoci, certo, diamoci una mossa. È vero, è proprio così, l'attività fisica è importantissima e attraverso la pratica di esercizio possiamo prevenire, contrastare l'insorgenza dell'osteoporosi, anche se non è l'unico elemento. Poi diremo anche, citeremo anche l'alimentazione e la vitamina D, perché l'attività fisica sicuramente può migliorare la qualità dell'osso, sì, sia nelle persone sane sia in quelle già affette da osteoporosi. Oggi sappiamo che l'effetto benefico dell'attività fisica è proprio dovuto a molecole che transitano dal muscolo all'osso, e sicuramente l'irisina è uno dei protagonisti. La produzione di questa molecola dobbiamo dire che si attiva praticando anche un'attività fisica a bassa intensità, una camminata, una corsa, un nuoto. L'importante è che sia condotta con regolarità. Quindi ogni regolarità vuol dire ogni giorno, professoressa Grano? Ogni giorno o comunque non meno di 3 volte alla settimana. Dai, per un po' di risina ne vale la pena, no? Professoressa Grano, proprio... certo che sì. Professoressa, naturalmente anche l'alimentazione, lei poi ha citato la vitamina D. Sì. Che è la vitamina salva ossa, professor D'Anchise. L'alimentazione... Sì, abbiamo proprio pochi secondi prima dei mercati, vogliamo che lei ci dia proprio altre due indicazioni flash per mantenere il nostro apparato scheletrico in ottima forma, e poi con il professor D'Anchise ci occuperemo di un'articolazione che mostra proprio la relazione importante tra la cartilagine e l'osso, no? Se esatto. La cartilagine salta, l'articolazione rischia. Professoressa Grano, quindi attività fisica, sì, alimentazione equilibrata, bilanciata, sì. Vitamina D? Allora, alimentazione sicuramente bisogna considerare un apporto adeguato di calcio e fosforo, e però tenendo presente che per un corretto assorbimento del calcio a livello intestinale sì. c'è bisogno della vitamina D. Certo. E numerosi studi dimostrano che la popolazione italiana in particolare è carente di vitamina D perché è una vitamina che viene sintetizzata a livello della cute dopo l'esposizione al sole, quindi chiaramente dipende molto nonostante dalla l'Italia sia il paese del sole, spesso non ci esponiamo nel tempo necessario per attivare questa vitamina. Adesso arriva pure l'inverno. Infatti. Però si può dosare la vitamina D con l'esame del sangue, vero dottore? Certo, professoressa, si può dosare. Quindi certo. Il messaggio è dosate, parlatene con il medico, il vostro medico curante, perché lui sempre, no, che decide un po' le nostre strategie. Giusta osservazione. Di prevenzione, non possiamo fare, non buttiamo, no? Non sprechiamo degli esami. La vitamina D, questo è il concetto importante, che è preziosa per la salute delle nostre ossa, proprio come l'alimentazione, proprio come l'attività fisica. Professoressa Grano, vogliamo ritornare presto a parlare con lei, ora però dobbiamo salutarla perché abbiamo i mercati che sono forti. Fortissimi, hanno bisogno oggi. Oggi la tonicità non manca, direi. Si sono mossi anche loro, esatto. Hanno un po' di risina. Menisco postissimo. Poi parleremo, come dice Deborah, di menisco. Professoressa Grano, grazie e complimenti grazie per molte. La ricerca. Buona Bene, giornata. Grazie a voi. Buongiorno. Mercati, a tra poco. A svolte ti diranno, hai fatto una sterzata. Ma tu segui la tua fuoristrada. Sterrare è umano. Nuova gamma Mini Countryman, tua a partire da 220 euro al mese con un anno di assicurazione incendio e furto e pacchetto di manutenzione in omaggio. Tanfisso 5,99, TAG 7,81, offerta valida fino al 31 dicembre. Esempio per Mini One Countryman con finanziamento maxi rata, messaggio promozionale salvo approvazione di Mini Financial Services. Fogli informativi presso le concessionarie Mini aderenti e su mini.it. Team System e i software partner aderenti presentano gli eventi Attractive Tour, formazione e software gestionali d'eccellenza. Dal 5 ottobre al 4 dicembre Sda Bocconi illustrerà i risultati di una ricerca sui nuovi fabbisogni tecnologici delle PMI. Nell'occasione Team System presenterà le soluzioni applicative che rispondono alle esigenze di innovazione delle aziende italiane. Cerca l'evento più vicino su teamsystem.com. Partecipa e potrai vincere uno degli Apple Watch in palio. Regolamento presso la sede Team System. Mi scusi, quanto viene quella sciarpa? 80 euro prezzo intero, meno 30% dei saldi, quindi 56 euro. Ma se ne prende due, scontiamo la seconda del 50%, quindi 40 più 56 che fa... 96! Esatto! Fatto lo scientifico. La matematica? Anche se non ci pensi, la usi tutti i giorni. Repubblica e L'Espresso presentano La Matematica. In 10 DVD inediti, Pier Giorgio Odifreddi ci racconta l'evoluzione del pensiero matematico. In edicola il primo DVD con Repubblica e L'Espresso. Da quando è arrivata Jaguar XE, è cambiato lo stile in città. Tua da 37.750 euro con Jaguar Care. 3 anni di manutenzione, garanzia e assistenza stradale inclusi. Jaguar XE, un nuovo concetto di berlina sportiva. Vieni a provarla. Le tue scarpe? Il tuo orologio? La radio che stai ascoltando? Tutto venduto da agenti di commercio. E i tuoi prodotti? Chi li vende? Vai su agenti.it, prenota il tuo stand a Forum Agenti Milano. Incontrerai più di 7.000 agenti di commercio. Agenti.it, dove trovi i tuoi agenti di commercio. 26-28 novembre, Fiera Milano City. State ascoltando un programma offerto da... Uliveto ti aiuta a digerire, Rocchetta ti depura. Uliveto e Rocchetta, acque della salute. Cuore e denari. metti gli altri uomini in ginocchio. Tu metti gli altri uomini in ginocchio. Tu c'è abbastanza per restarci sotto. Tu metti gli altri uomini in ginocchio. No, io metto il ginocchio. Allora, proprio in ginocchio da noi, no, non è il caso. Per in raggiungerci, da te non ti merito più. Ecco, per raggiungerci basta chiamare il nostro numero verde 800 24 00 24. Non occorre che arriviate qua in ginocchio. Noi accogliamo naturalmente tutte le vostre domande, le vostre richieste. Oggi parliamo di ginocchio. Abbiamo iniziato la nostra parte di cuore occupandoci della salute delle nostre ossa e abbiamo pensato che ci fosse l'opportunità anche di parlare delle cartilagini, perché salvano le nostre ossa. Un esempio, il ginocchio. Se le cartilagini saltano, professor D'Anchise mi sta guardando, il ginocchio va in crisi. Professor D'Anchise, devo solo dire, posso mettere questa musica nel mio studio che mi sembra perfetta? Chiediamo in regia se gliela lascia. Sì, gliela possiamo. Hanno detto di sì. Professor D'Anchise, okay. Allora, c'è una relazione molto stretta, no, tra la salute delle cartilagini e la salute generale del nostro ginocchio. Sì, che... questo in particolare per le articolazioni portanti. Voglio dire, un'artrosi iniziale della spalla non dà dei grossi problemi. Certo, fa male, tutto quello che vuole, però non è così invalidante come può essere una sofferenza della cartilagine, una sofferenza articolare delle articolazioni che ci portano a spasso, che sono fondamentalmente la caviglia, il ginocchio e l'anca. Il ginocchio. Per questo lei ha deciso di occuparsi dell'anca, del ginocchio e della caviglia. Il ginocchio. Non a caso, vero? Non a caso, sì. Il ginocchio è quello più sfortunato in questo senso, perché è l'articolazione più complessa. Nel senso che, lo dico sempre, sono due superfici che non sono nate per stare l'uno insieme, perché una è convessa e l'altra è piatta. Allora madre natura ci ha messo dentro legamenti, menischi e quanto poteva metterci per renderla stabile, però evidentemente più elementi ci sono che danno stabilità e maggior rischio c'è che qualcosa possa non funzionare. Per esempio i menischi, ne parlavamo prima, i menischi sono un elemento fondamentale, ammortizzatori, sono degli ammortizzatori. Pensate che se solo si porta via un 15-20% di menisco quando si fa l'intervento, la pressione di carico aumenta del 350%. Quindi nel tempo, avendo tolto l'ammortizzatore, la cartilagine si consuma e, consumandosi la cartilagine, si espone l'osso e si ha quella che è l'artrosi. Quindi l'artrosi è il consumo della cartilagine. Questa è una domanda che spesso fanno, dico: mi si è consumata la cartilagine, cosa vuol dire? Vuol dire che c'è l'artrosi, e quella è l'artrosi. Parleremo naturalmente di artrosi, parleremo di traumi che possono danneggiare naturalmente la nostra articolazione, come anche gli anni e di tutte gli stress a cui sottoponiamo le nostre articolazioni. Oggi ripasseremo le regole di prevenzione, vi aggiorneremo sulle tecniche oggi a disposizione per riparare le lesioni, parleremo naturalmente di indicazioni per l'intervento, ma se il menisco non l'avete più, restate, perché ci occuperemo anche di voi. 800 24 00 24, professor D'Anchise, non c'è bisogno, ma mi piace ricordarlo che lei è stato il primo in Italia ad aver effettuato il trapianto di menisco in un tempo in cui i menischi si asportavano con grande disinvoltura, diciamo così. Oggi non è più così, il trattamento è sempre più conservativo. C'era però già all'epoca una tendenza molto positiva a ricucire i menischi. Questo è un argomento che spesso il paziente dimentica o non considera. Ci sono delle situazioni particolari in cui la presenza di parecchio sangue in una parte di un menisco consente di ricucirlo e quindi di salvarlo, perché quello a cui miriamo noi è salvare il più possibile i menischi. Ahimè, però, qualche volta bisogna per forza buttarlo via, e il trapianto meniscale è una situazione, diciamo, di ripiego, perché come sempre non si riesce mai ad avere un pezzo anatomico esattamente identico a quello che è stato portato via, però riduce molto il rischio di avere una usura nel tempo. Ma professor D'Anchise, per chi il menisco non ce l'ha più? Sì. Cosa deve fare, cosa meglio che non faccia, allora, se prima, la pressione aumenta in modo così considerevole? Ai pazienti, prima di tutto, di fare lo struzzo, cioè mettere la testa sotto terra e stare a vedere come vanno le cose, nel senso che non è assolutamente detto che prestissimo possa capitare qualcosa di negativo. è molto importante. Noi abbiamo due menischi, uno interno e uno esterno. Quello esterno è più cattivo. Quando si porta via una buona parte dell'esterno è molto rapida la comparsa dell'artrosi. Comunque, tolto il menisco, si sta ad aspettare. Non ha neanche senso dire non fare attività fisica. È chiaro che più si protegge l'articolazione meglio è, però non ha neanche senso dire questo. Uno secondo me deve svolgere le attività che è in grado di svolgere, però al primo segno di qualche cosa che non funziona bisogna interpellare lo specialista, perché ci sono dei consigli di vita e anche delle tecniche chirurgiche che possono migliorare ma non risolvere il problema. Ma professore, quando lei dice i primi segni, esatto. Noi dolore, cosa vuol dire? Dolore, gonfiore? Dolore, gonfiore. Vedi che sappiamo, Deborah. Sapete tutto. Dolore, gonfiore. Falla a me le domande, vedrai che ti rispondo con la stessa pertinenza. È superfra la mia presenza. Ma no. Allora, cerchiamo oggi di capire quali sono i nemici del nostro ginocchio, in modo particolare del nostro menisco. Sappiamo che può essere danneggiato da un trauma. Certo. L'altra volta a Expo ho preso un volo. Le ho dovuto salvare la vita per ben due volte, professor D'Anchise. La terza, lei viene con me perché questa qua non la controllo più. No, una volta una signora ti ha dato una botta, veramente ti ho ciuffata al volo. La seconda hai fatto tutta la sola. Infatti avevo molto male al ginocchio, ho detto mamma mia, qua hai rotto. Allora, però ci sono anche gli anni e l'attività fisica, che abbiamo detto allora, essere così importante per la salute delle nostre ossa, ma riferendomi al ginocchio del runner, sappiamo che l'attività fisica anche logora le nostre articolazioni. Certo, come sempre tutte le cose devono essere fatte con buon senso. Un'attività fisica importante continua nel tempo tende a consumare la cartilagine, cioè la cartilagine non è fatta per il grasso, la persona grassa non è fatta per la persona che corre, che fa il maratoneta, è fatta per una vita normale con un'attività fisica ragionevole. Tutto quello che va ad eccedere ovviamente comporta un'usura della cartilagine, l'obesità, quindi l'attività fisica eccessiva, e un altro elemento che però purtroppo è indipendente dal paziente è l'anatomia, la forma di queste ginocchia. Le ginocchia storte, tipo quelle da cavallerizio, come si può dire, o con le gambe da calciatore, un po' anche. Bravissima. E tra poco parleremo perché si rompono i calciatori. Questo evidentemente comporta una cattiva distribuzione del carico, e essendoci una cattiva distribuzione vi è un maggior peso da una parte piuttosto che dall'altra nel ginocchio e c'è il rischio di avere un'usura. Senta, a proposito infatti, di calciatore, qui qualche volta in queste situazioni, quando io dicevo cosa si può fare, qualche volta si fanno delle correzioni di queste deformità con degli interventi chirurgici per ribilanciare la distribuzione del peso, si chiamano osteotomie. Quindi per prevenire il rischio di avere poi l'anatomia del ginocchio. Sempre però con la comparsa di sintomi, perché ogni tanto ci sono pazienti che hanno le gambe storte e sta benissimo anche a 80 anni. Quindi noi non lo sappiamo perché abbiamo delle gambe perfette. Purtroppo questa cosa non possiamo. Adesso le donne portano tutti i pantaloni, non si sa mai come sono le gambe. Lei si fidi. Adesso vanno tutti i leggings, si figuri, tutto stretto, si vede come, altro che. Allora, professor D'Anchise, a proposito, parliamo delle gambe dei calciatori. Di Messi, che si è adesso, a parte che penso che abbia qualche problemino di denari. Più di denari, più mio che altro, Sì, per quello che posso aver letto, lui ha avuto una lesione di un legamento che non è importantissimo, si chiama collaterale. Il dubbio viene sempre in queste situazioni che possa essere mascherato anche qualche danno più importante, perché spesso vi è un'associazione tra lesione del collaterale e il crociato anteriore con lesione molto, molto importante per uno che fa attività sportiva, specialmente a quel livello. L'elemento importante è, come dicevo prima, che a parte i menischi ci sono anche i legamenti. Se i legamenti saltano, specialmente il legamento crociato anteriore, e non viene trattato in età giovanile, il ginocchio lavora male, tende a cedere e nel tempo si ha il rischio di avere sia un'usura dell'articolazione, sia in un episodio di cedimento, per esempio una rottura di un menisco. Eccolo. Quindi, lì, allora, come stanno anche i vostri legamenti? 800 24 0024. Esatto, perché qua un problema è che è malato. dietro, attenzione. Vero? E sono tutta perché questa articolazione che è nata per sbaglio, cioè era un errore, allora il padre eterno ha detto aspetta che cerco di recuperare, metti l'ammortizzatore, metti i legamenti, però insomma questo abbiamo. Ha confezionato di tutto un pacchetto del quale oggi noi parliamo. Noi parliamo approfonditamente, Carmelo mi sta già facendo dei gesti per dire che... Come pignolo. È l'ora di andare a dire, a sentire che cosa succede sul traffico e quindi sulle strade. E stavo pensando che tante persone dopo ore e ore passate alla guida si alzano e sentono male alle ginocchia. Professor D'Anchise, è grave? 800 24 00 24, se vi riconoscete restate con noi. Cuore e denari. Muoviti, muoviti. E allora muoviti, muoviti. Comincia a muoverti, muoviti. Allora ci muoviamo anche noi, naturalmente non solo perché l'attività fisica, come abbiamo sentito dal nostro primo ospite, la professoressa Grano, attiva l'ormone salva ossa, l'irisina, ecco, ma vogliamo anche muoverci per dare a voi la possibilità di porre le vostre domande, richiedere i vostri consigli al professor Roberto D'Anchise, lo state facendo all'800 24 00 24. Parliamo del ginocchio, delle nostre ginocchia, e i messaggi stanno arrivando anche al 349-238-6666. Professor D'Anchise, un ascoltatore ci fa un appunto dicendo la fisioterapia, considerarla? Parlate solo di chirurgia, su problematiche ortopediche è molto riduttivo. Abbiamo parlato di fisioterapia tantissime volte. In tutte le lingue. In tutte le lingue, in tutte le salse, con piacere ne parliamo, soprattutto anche perché il professor D'Anchise nel momento in cui è un sostenitore del periodo anche post. Siamo stati bacchettati e allora dobbiamo difenderci. La fisioterapia sicuramente ha un ruolo importante. Noi abbiamo parlato di situazioni che comportano dei sintomi abbastanza importanti. Nelle situazioni, infatti io ho precisato, aspettiamo, facciamo gli struzzi, che vuol dire avere sempre una buona muscolatura. La fisioterapia è molto importante. Però io direi più che fisioterapia, l'attività fisica. La fisioterapia compare nel momento in cui c'è una patologia e se uno ha una patologia da lesione meniscale, certamente avere una buona muscolatura è importante. La fisioterapia è fondamentale nel post-operatorio. Per il resto, tranne situazioni molto particolari, e mi riferisco per esempio alla patologia della rotula, in cui la fisioterapia è indispensabile quando la patologia è una patologia iniziale, per risolvere nel 70% dei casi il problema. Quindi ci sono delle situazioni in cui la terapia è la fisioterapia, ci sono delle situazioni in cui la chirurgia è la soluzione del problema, ma deve essere associata ad una riabilitazione post-operatoria. Allora, potete definire l'attività fisica eccessiva nel caso di chi corre 5-10 km ogni 2-3 giorni? Questo è un messaggio di un ascoltatore che ringraziamo perché ci dà lo spunto per precisare. Quando parliamo di attività fisica eccessiva, che quindi in qualche modo può invece che essere un vantaggio, a mio avviso non è quantizzabile. E no, quindi non è il consiglio, però eh? È chiaro che 5 km al giorno tutti i giorni è un impegno importante per l'articolazione, specialmente per la corsa, perché la corsa, oltre al passo, diciamo così, c'è anche il momento in cui il piede fa il piccolo saltino e quella compressione è sicuramente negativa. 10 minuti tutti i giorni nella bicicletta, per esempio, è già meglio. E poi dipende dalla forma delle ginocchia e anche dalla stazza della persona. Allora il consiglio cos'è? Se diventate degli sportivi amatoriali, fate una valutazione. Mi sembra un'ottima idea. Perché gli esperti di riferimento, che possono essere un medico dello sport, un docente, un laureato in medicina sportiva. Poi, se parliamo di corsa, per esempio, anche la calzatura è fondamentale. Ecco, quindi, uno va a correre con le scarpe da tennis, non è proprio la stessa cosa. Insomma. A proposito di scarpe da tennis, se diventa la passione della vostra vita, fatevi accompagnare per prenderne solo i vantaggi. Sono le endorfine il problema. Le endorfine. Allora, 800 24 00 24, abbiamo tempo di sentire i nostri ascoltatori che chiedono un consiglio dal professor D'Anchise, e bene fanno. Antonia dalla provincia di Milano. Antonia? Antonio? Sì. Antonia, buongiorno. Sono io, buongiorno. Senta, sì. Un male boia lo definirei. E dal mese di giugno ho incominciato con questo male al ginocchio. È che uno, allora, l'ortopedico dice che da operare, mi manda dal chirurgo. Ma che diagnosi le hanno fatto, operare, signora? Vorrei sapere cosa devo fare. Per un male boia, ma... che rende subito l'idea, Antonia, è sì. Molto simpatica. Senta, ma che diagnosi le hanno fatto? L'ortopedico mi ha mandato subito dal chirurgo da operare. Sì, ma... Il chirurgo ha detto che non è da operare, ma per... mi ha fatto delle infiltrazioni. Allora, mi scusi, prima domanda è, che accertamenti ha fatto? Ha fatto la radiografia, ha fatto sì, la risonanza magnetica. La risonanza c'è un po'. Di artrosi? Di artrosi, ecco, sì. Diciamo che l'artrosi è una patologia che va curata a secondo dei livelli della gravità. Ma è poca roba l'artrosi in confronto al male che sento. Camminare con le stampelle per tutto il mese di giugno. Quindi, allora, Antonia, professore D'Anchisa, ha detto, lei mi dirà che è l'artrosi, ma l'artrosi no. È poca posso cosa. Posso dire una cosa che è molto importante, alla quale non ci si pensa. Noi, da quando è venuta fuori la risonanza magnetica, abbiamo scoperto una patologia particolare che si chiama edema del tessuto spongioso. Sinteticamente, le ossa lunghe sono nella parte centrale come dei cilindri vuoti. Quando si arriva all'articolazione, madre natura ci ha messo dentro un tessuto che sembra una spugna. Sì. Questo tessuto qualche volta va in crisi o per sollecitazioni anomale o perché c'ha voglia di andare in crisi e qualche volta può dare una sintomatologia come quella della signora. Se così fosse, riposo, stare a vedere e rivedere poi con una nuova risonanza. Quindi il male della spugna dell'osso, esatto. Ribattezziamolo così. Il sintomo è il dolore. Carlo dalla provincia di Vicenza, buongiorno. Buongiorno. Sì. Io ho avuto un infortunio l'anno scorso giocando a tennis. Diciamo è una fessurazione del menisco. Sì. Sentendo tre ortopedici, due hanno consigliato terapie, il terzo in maniera specifica. Allora, bisogna sempre sentirne uno. Sinteticamente le dico questo. Quanti anni ha lei? 45. Allora, dopo i 30 anni... Dopo i 30 anni, sì, grossolanamente i menischi si possono consumare. La rottura, il consumo del menisco non sempre va operato, qualche volta guarisce per conto suo e qualche volta se lo operiamo ci può dare dei dispiaceri. Quindi attenzione a fare l'intervento chirurgico perché può creare dei problemi. Quindi si può aspettare, vero professor Menchise? Sì, almeno 3-4 mesi. Tanti senza. Guariscono da soli. Allora, il problema sull'artrosi del ginocchio torneremo, ma in generale sull'artrosi arrivano ancora tante domande, ma il tempo a nostra disposizione. Posso approfittare? Approfitti. Nel senso che domani qui a Milano, in Corso Venezia 47, all'Unione del Commercio, la Sigascot, che è una società di ortopedia, mi ha incaricato di organizzare un incontro sull'artrosi con la popolazione. Quindi è una cosa importante per avere tutte le informazioni possibili. Se la Nicoletta potesse venire mi farebbe anche un piacere. Magari porto anche la Debora. Anche la Debora. Le mie ginocchia non lo attraggono affatto. Va bene, allora per saperne di più intanto se avete dubbi, domande e chiarimenti scriveteci perché noi inoltreremo le vostre richieste al professor D'Anchise che ringraziamo per essere stato grazie con noi. Sì, grazie. Grazie professor D'Anchise, anche Carmelo Lauricella che ci taglia sì, sempre, dai, ci bene, mozza. Va bene, anche Laura Vanossi e Marco Lombardi. Laura che è tornata da lunedì, non abbiamo ancora degnamente celebrato questo rientro. Volevamo vedere se resisteva. Ce l'ha fatta la nostra Laura. A lunedì, buon weekend a tutti.